7 del mattino, una manciata di secondi. Chi vi parla è l'Ariele, pronto ad augurarvi una buona giornata dagli studi di Rock FM. Messo malissimo, sono messo quasi come gli studi di Rock FM oggi. Ieri avevo iniziato incensandoli, oggi no. Sì. Schizofrenici, come piace a noi. Vediamo di affrontare assieme questo venerdì, che da calendario, ovviamente 2008, l'anno della svolta, mi risulta essere il 15 di febbraio. Questa è la nostra sigla. Pane, burro e rock and roll. Non ce n'è per nessuno. Restate con noi e ne sentirete delle belle. Pane, burro e rock and roll. Your rock breakfast. La tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. Ah, sti calendari mi manderanno matto comunque. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. I calendari mi manderanno veramente a male. Vi ricordate che un po' di mesi fa confessavo che avevo centinaia di mail insolute ad aria il chioccio alla Radio Rock FM, perché dovevo spedire i calendari e non avevo la forza di cominciare. Ecco, abbiamo cominciato, già mi viene la carogna, capito? Oh mamma, ma ce la faremo, tiriamo avanti. Puntata 184 di Pane, Burro e Rock and Roll. Ciao a voi della prima ora. Ma che della prima ora? Voi dei primi minuti. Il saluto vi arriva anche con la manina dal nostro Spadino, che saluta un po' tipo Regina Elisabetta, no? Così. Oppure di solito le ragazze degli uomini del wrestling salutano con la manina così a coppetta. Ciao, muovendo solo la manina. Ciao Spadino, ciao anche a te. Puntata particolare quella di oggi, perché come da promo girato nelle ultime puntate, grande tensione per il reparto AC/DC con la bocca. Sapete cos'è un musicista rock con la bocca? Voi dei primi minuti forse no, se non vi è mai capitato poi di spulciare le nostre puntate di internet, o non vi è mai capitato, di solito lo facciamo nell'ultima mezz'ora, e siamo per la musica rock con la bocca, che è quella così, oppure cago, oppure du, esatto. Nell'ultima mezz'ora di quest'oggi ascolteremo il primo brano composto interamente dalla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll con la bocca. Che emozione, varcheremo anche questo traguardo. Tranquilli, settimana prossima poi ripasseremo nel corso della prima ora il brano suddetto. Ma diamo inizio alla puntata di oggi. Spadino, roba forte, per favore. Do you? Living Loving. Quando fa lo zozzone. Qua Rock FM ci sono i ragazzacci di Pane, Burro e Rock and Roll. Sta arrivando anche Roberto Fricantoni per così quella spruzzatina di prezzemolo che fa sempre bene alla nostra due ore di diretta. Ragazzi, oggi c'ho la carogna, scusate. Non so se gli ha fosfadino. C'ho la venerdì, c'ho la carogna oggi. Che ci vuoi fare? Ma ce la metto tutta, ci arrivo fino alle 9, lo so. Poi ci sono gli sidisi con la bocca, quindi guarda. Vi lascio un paio di coordinate, dovessero servirvi. Il nostro 335-100-7777, che è il numero di SMS classico. E la casella di posta elettronica che ho tra l'altro già citato, ariel@radiorockfm.com, dove possiamo anche contrattare la spedizione del calendario volendo, oppure uscite particolari, se volete uscire con Spadino, ragazze mandate pure un Spadino ti va, una fotografia, ma mi raccomando vera, non finta, note biografiche, Spadino vaglierà la possibilità di uscire con voi. Saluto il dottor Andrea che mi manda a onor del vero il primo messaggio di Pane, Burro e Rock and Roll di quest'oggi. Ogni tanto c'è la gara a essere i primi. Lui me lo scrive, cioè il testo recita così: ciao Ariele, scrivo adesso circa l'una di notte per chiederti, sono o no il primo a mandare un SMS? Se non lo sono, non ascolterò più. No, in realtà lo sei, ma non lo dico per tenerti come ascoltatore, sei veramente il primo. D'altra parte all'una è ovvio che sei il primo, hai giocato sporco, però la gara vera è quando a 7 e qualche secondo, capito? Così hai giocato veramente sporchissimo. Dicevamo 15 di febbraio, ci spariamo l'almanacco, speriamo con poesia. È quello lì che apre la porta dell'ascensore, Roberto Fricantoni. Speriamo Spencer Davis Group e a seguire almanacco, se gli va, perché se non gli va possiamo fare anche dell'altro. Venerdì e Roberto Fricantoni non ha fatto in tempo a finire l'ode. dell'almanacco. Ma guardi, sa cosa guardi, le propongo, cosa un esperimento. Le propongo, sì? Un esperimento. Io attacco con l'almanacco del 15 febbraio, sì, e lei in diretta, così, sì, mi finisce l'ode di quest'oggi. Va benissimo. Se la sente di dare comunque il buongiorno agli ascoltatori? Naturalmente, sì, no, perché sono un gran maleducato. Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Pane, Burro e Rock and Roll. Si tuffi nella scrittura, nella composizione dell'ode di quest'oggi, mentre io ricordo che il 15 di febbraio del 1903 Morris, Mick Tom e la moglie Rose introducono negli States il primo orsacchiotto di peluche. Che tenerezza! Capito? Un'invenzione minore. Un'invenzione minore con la quale i coniugi hanno fatto chissà i miliardi. Era. Sarà stato uno di quelli con i bottoni al posto degli occhi, chi lo sa? I primitivi, i primi esemplari di orsacchiotti di peluche. 1977 invece un certo Glenn Matlock abbandona i Sex Pistols per dissapori con Johnny Rotten. Giovanni il Marcio, rimpiazzato da Sid Vicious, fonderà a breve i Rick Kids. Cos'è? I ragazzi ricchi. Sì, è arrivato alla prima. No, sto lavorando sulla rima? Sulla rima baciata. Con delle sostanza. Prime due... Sì. Sto sbirciando. Sì, sì, sostanza. Va bene, mi scusi. Ancora due notizie prima di finire l'ode, sì, la, certo, prego, ce la deve fare. 1955, Lecker, quindi un rocker, Kevin Mitnick, viene arrestato dall'FBI, accusato di essere entrato in alcuni dei sistemi informatici meglio protetti degli Stati Uniti d'America. Ah, che bello fare l'hacker, ce la vedrei proprio lei fricca fare l'hacker. Guardi, è una delle mie ambizioni più forti. Immaginavo. E abbiamo l'ultima notizia, mentre vedo che la quartina è ancora a metà, quindi mi vada sulla rush finale. Facciamo, sì, gli auguri di buon compleanno a YouTube, il canale televisivo, potremmo chiamare così, che si trova su internet e dove spesso e volentieri si vedono, c'è questa nuova moda di YouTube, di avere i filmati, sì, su YouTube, la hostess che si spoglia, le insegnanti che fanno vedere i tanga, quelle robe. Aspetti, lì. È quel canale televisivo nel quale si mandano anche i filmati realizzati dal cellulare, per, certo, cui, certo, i giovani, sì, teppisti, sì, si fanno a scuola, peccare, gli fanno, sì, i bulli e poi si vedono. Prossimamente anche noi di Pane, Burro e Rock and Roll proporremo qualche filmativo da pubblicare su YouTube. E mentre siamo arrivati al momento dell'ode all'almanacco di Roberto Fricantoni, una quartina. Sì. La prego, e non, sì, ricicli una una rima, perché l'ho capita, lei ne ha composta solo una di rima. Ma prego, lo faccia. Allora, venerdì cambia la sostanza. Sì. Si avvicina la fine della sofferenza, eh? Le piace questa duina? Sofferenza, sì. Adesso deve fare rima con sostanza e sofferenza. Sofferenza. Ma per quanto bislacco. Sì. Sosteniamo l'almanacco. Evviva, complimenti maestro. Bravo. Grazie. Prego. È stata durissima. Ho visto. I'm sinking down. Oh yeah! Crossroad, i Cream. Questa roba che fa bene, ragazzi. A me fa bene sta roba qua. Grazie, ragazzi. Ehi, grazie. Erano per i Cream, però, gli applausi. Ovviamente non per noi di PBR. Fate anche voi come quel pazzo scatenato di burro con Crossroad. Cambiate anche voi la sostanza. Passate dall'LSD al PBR. Effettivamente il PBR potrebbe essere la sigla di una sostanza. È freak? Mentre, ragazzi, io ve lo dico subito. È vero che è una settimana, forse due addirittura, che abbiamo preso questo giro di fare lode all'almanacco. Conoscendolo, freak, non inzigatelo. Perché è un bambino. Se voi iniziate a scrivere anche voi le vostre odi, è finita. Io ve lo dico. Lo dico per voi. Mentre un amico milanese si arrabbiava che ho canticchiato su una canzone. Perdonami, è vero. Di solito do la colpa a Spadino. Oggi non è colpa di Spadino. È che dovendo fare l'appuntamento con gli ACDC con la bocca più tardi, e essendo io il chitarrista della band di Pane, Burro e Rock and Roll, mi devo scaldare, capito? Sto scaldando l'amplificatore che c'è dentro di me, perché le valvole che ho nel petto devono scaldarsi per riuscire a fare bene gli ACDC con la bocca. Saluto, patentata 973, avuta al raduno surrealista di Celle, aspetta con ansia Carla e i suoi numeri del lotto. È vero, oggi è venerdì? No, ma dove fa? No, ieri. Perché nessuno della redazione mi ricorda i numeri del lotto? Mannaggia! Ma bisogna chiamarla allora, ma dai, non si può fare una trasmissione così. C'ho qua 80.000 fogli di stupidate e Carla ve la dimenticate. Ma dai, era ieri l'estrazione. L'estrazione. Vabbè, no, guarda, adesso no, vai con la musica, Spadino, che tiro una girata da Isaac Rizzi che se la ricorda almeno fino alle 8, guarda. Tanto ci gustiamo i Van Halen. Sentito che roba? Mentre sale la luce qui a Milano, ma il lampione crepuscolare viene. Black and Blue, resta con PBR. Yeah. Black and Blue, Van Halen. Siamo pronti per la prima pausa di oggi. Lo volevo sottolineare. Per quelli che della prima mezz'ora di solito si sentono i figli della serva qui a Pane, Burro e Rock and Roll. Perché le novità così le abbiamo sempre in fondo alle due ore, seguendo questo climax in crescendo. Abbiamo una novità per voi, cioè è la prima volta che programmiamo uno spot, sta per andare in onda uno spot che farà parlare di sé. Non so se avete mai sentito parlare di Frigo e Rogna. Frigo e Rogna sono due cavie da esperimento che parlano con una vocina un po' strana e che tengono compagnia da parecchie puntate. Si raccontano stupidate, stanno lì nelle loro gabbiette e si raccontano stupidate. Hanno avuto un'idea. Idea che viene raccontata, viene narrata in questo breve jingle pubblicitario che da oggi partirà e che preannuncia una forte novità riguardante Frigo e Rogna. Voi della prima mezz'ora quest'oggi siete i primi in assoluto a sentirli, perché vi vogliamo bene anche a voi. Ehi Rogna, mi è venuta un'idea! Quale sentiamo? Perché non mettiamo su un gruppo musicale, ma di quelli tosti, per far conoscere la nostra condizione di cavie da laboratorio a tutto il mondo? Un gruppo sensibile ai problemi sociali, grande idea! Così, intanto che denunciamo la nostra condizione disagiata, maledetti umani, approfittiamo della fama per rimarchiare qualche bella topina cavietta. Tipo, guarda, quella della gabbietta 26. Ma non capisci niente! Sei il solito incorreggibile maiale, anzi, un caviale! Un incrocio tra una cavia e un maiale! Questa mi è talmente piaciuta che ti perdono e non mi sono nemmeno offeso! Va bene, ci sto a fare il gruppo, ma concentriamoci sul rimorchio. Prossimamente, Frigo e Rogna fanno la band. Il gruppo.